forza. No, io una volta che metto 10 levo tutto, levo 1 7 levo tutto quello che c'è dentro. Sì, non c'è niente da nascondere, ma un po' di tutto. Ci dovrebbe essere, mi pare di aver fatto Facebook, adesso non mi ricordo, poi c'erano le mail, ma non lo so, vabbè, ma già ce l'ha Roberto, non mi frega niente. Non ti preoccupi, Zé. No, vabbè, io vi saluto, che se siete dopo riprendo a casa, no? Mentre che sto sistemando il PC, infatti arriverò verso le 8:30 a casa. Ehi, ma perché c'è la marina? Sì, sì, ancora sì. Oggi abbiamo pulito la stufa, provata, perfetta. La stufa a pelle, utilizzi in mamma. No, non so, balla, c'è cosa, ragazzi. Ma ogni quanto va pulita? Ogni anno. Per quanto riguarda le guarnizioni, dicevo, le ho cambiate ogni 2 anni. Ma abbiamo cambiato tutte le guarnizioni anche. Non è che va pulita ogni giorno, no? Cioè quando dalla cena va tolta. Ah sì, dove brucia sì, per forza. Tutti i santi giorni bisogna svuotare il cestello. Sì, il glacierino, certo. Ma c'è un glacierino, ma che si sfila e si butta nella mondezza. No, lo puoi anche sfilare. Sì, comunque il glacierino lo lesi. Lo pulisci bene, siccome ha dei furi sotto, no? E poi aspiri sotto dove tu metti il glacierino, lì si crea un po' di fuligine. E poi vabbè, io l'ho tutta smontata dentro, da dei pannelli là, sono due bulloni, li ho levati, c'era un po' di fuligine ai fianchi, da all'interno. E si è a posto, l'abbiamo accesa, purtroppo quella di Marina, la candeletta è rotta, perché l'ha cambiata mio fratello, così è durata un mese, presa da cosa? Da Sidernet, non passava in garanzia, roba di buh. Ma l'hai pagata la cosa, Mari? Ma l'hai pagata? Ma c'è una cinquantina di euro, comunque vabbè. Muta, si è mucca. Allora la stiamo accendendo con come si chiama? Quello per accendere col fuochino. Sono qua, ma a seconda mano se ne trovano buone. Ma come dico il nonno, me ne voleva dare una a me, a Ugiro, 400 euro, da 9.000, nuova. Ah sì? Ma ne parla? Penso di sì, a me me la voleva installare. Io non l'ho presa perché a me fare manutenzione a queste cose non sono capace, poi tocca disturbare amici, aiuto, non ne voglio, ormai non mi interessa. Già ce l'ho io il riscaldamento, ho capito, non me l'ha fatti nulla. No, ti spiego. Allora, io ne ho una a legna, che però molte volte, quando non è voglia di tagliare la legna, volevo utilizzare quella per poter riscaldare almeno le stanze dove stai, tipo in salone, in cucina. Però se è canalizzata, ho la possibilità di fare qualche buco e riscaldare anche le altre stanze, capito? E si conferma, Guarda, se non l'ha venduta, ti ripeto, a me me la voleva dare queste tasse. Quindi siamo a ottobre, novembre, mi pare a... abbiamo parlato a settembre, no, ad agosto, a settembre. 400 euro, mi ha detto te la porto io, intanto siamo vicini, mi ha detto te la porto e te la installo. E ha detto non li voglio perché non mi interessa a me fare manutenzione a quella cosa lì, è una rottura di balle. Ehi vabbè, al limite chiama Luca, me la faccio pulire da lui. Vedi, tu magari è pratico, io non mangio più grancia, voglio c'è il riscaldamento, c'è la caldaia a gas, no, me la fatti nulla. Adesso non l'ho manco attivata ancora, figurati, non ce n'è freddo. Devo andare domani da Sacchetti perché è installata lui, deve venire a fare il collaudo e a attaccarla, accenderla. E così sono a posto, non manco, non ho problemi di nulla, quando non fai più gas, ciammi, non ho gas, truba che cazzo, devi stare a pulire, a fare. Ci viene Luca a pulirmi la stufa? Sì, non è semplice. Allora, ne ha pulito uno mio fratello, però era, mi sa, 2 anni, 3 anni non l'ha pulito questa qua, solo dentro e basta. L'ha tutta smontata, portata giù, soffiata con il compressore, è uscita bene. Poi da poco, vabbè, purtroppo non c'era la guarnizione, l'ha preso, l'ha ripiazzata, era un po' di perdita. E allora cosa è successo? Che è dovuto riandare, smontarla di nuovo i tubi e cambiargli le guarnizioni. E ci vuole tempo, ci vuole rimanere, è facilissimo, è un attimo, smonti i tubi che ci sono dentro casa, poi vai fuori, con quel bastone lungo con la spazzola, pulisci tu, mi piace la guarnizione, ci ho messo boh, 3/4 d'ora. Ah, ho capito, ma tu stai dicendo a pulire i tubi dal fumo, diciamo, dalla canna fumaria. Vabbè, per forza, sì, puliti vogliono. Ah, no, io i problemi con la tuffa a legna non è così, diciamo che anche se sono sporchi, certo cazzo non ci deve essere incrostazioni da 3 cm a parete, però voglio dire, non è che questa grossa sporcizia di fuligine che hanno, capito? Ma purtroppo vogliono puliti, infatti anche il padre di Marina c'ha la cucina a legna, poi la stufa è la cucina. Ho capito. Cucina ecologica. Sì. Va bene, no, io stavo pensando per metterne un salone, ti ripeto, per questa comodità qua, però devo studiarla per metterla, perché sinceramente insomma è un punto un po' particolare dove dovrei metterla per poter scaldare anche le altre stufe, in maniera tale che non si veda questo tubo lungo, capito? Lo vorrei fare direttamente a parete. Devo vedere un pochino, Anche così, però vabbè, sotto traccia dici? No, penso il tubo della canna fumaria che sale in verticale, verso su, e lì non ho problemi, perché lì dove sale sale ho il tetto, quindi non ho, però non so se ce l'hai preso in tubo, l'ho portato nel radio, ho una parete a fianco che se foro lì posso scaldare le altre stanze, capite? Se lo metto più lontano invece no. Certo, no, qua già, vabbè, qua è grande la casa, c'ha 4 camere, poi doppio servizio, io l'ho vista Claudio, è grande. Diciamo a quel punto lì, qua non arriva, questa cameretta purtroppo non arriva, però se la lasci tutto il giorno già un po' non si sta male, ecco. Poi se ti vuoi scaldare bene devi stare vicino, altrimenti niente. Vabbè dai, io salgo, dai, ci sentiamo dopo se ci siete, ciao. Va bene, ciao. Ciao, Rogarie, un attimino che mi assento anch'io, che devo mettere le luci all'orecchio d'aria. Ehi, cos'è, colpo l'aria? Era stamattina con questo mal di orecchio, adesso voleva mettere le gocce, vediamo se le fa bene. Fai, saluta ma. Ehi, grazie. Dall'opinionatico, perché anche perché Marcello è Diocesi, l'ho capito, il padre di Marcello, Marcello sono Diocesi, lo conoscono bene, ci siamo visti, ci siamo anche per il caffè, stavamo parlando. Allora la voce ciuffa, no ne voglio, ma da poco, quindi penso che non l'abbia ancora venduta, poi lasci, poi l'abbia venduta adesso per Natale, comunque glielo chiedo se ce l'ha ancora. Sì, sì, vabbè io ripeto, ne ho trovato anche con più basso del prezzo, però non sai mai da chi comprarla, com'è, quanti anni ha, no? In che condizione è messa, quindi se ti affidi a uno che magari le smonta e le ripara, è già un'altra cosa, capito? Non le vende, c'è un negozio a Ugilo di elettrodomestici, le vende in piazza, non so se lo conosci, capito? Domenico nonna, Domenico nonna. C'è un negozio, anche un bel negozio, vende un sacco di elettrodomestici, anche perché c'ha prezzi molto buoni. Stava una stufali, costava un sacco di soldi, pare costava più di 1500 euro. E l'ha pagata un bel po' e poi non aveva pagata più, capito? Se no si può vendere anche di più, mi ha detto, però a me me la dava 400 euro. E fermati qua che mi potrebbe interessare, capito? Se troviamo una soluzione dove piazzarla per poter scaldare anche altre stanze, capito? Sì, no, ma io non l'ho messo, anche perché ho intenzione molto probabilmente di fare il caminetto nel salone all'angolo, perché c'è già la canna fumaria pronta, capito? Era stata predisposta, già proprio fuori tutta, solo che sotto è tappata, c'è da fare il buco nella cosa e basta. E boh, quindi adesso vediamo, non per le palle, perché poi magari fa puzza, fa qui, fa là, però esteticamente è molto bello, ci sta benissimo all'angolo al salone. Quindi non ne ho preso per quello, se no lì ci poteva stare, anche non è che non ci poteva stare, ma non ne ho preso per quello, manutenzione, fare, pulire, il dubbio che poi c'è in facciata, brutto, no, non mi piace. Vado con i termosifoni che ho, con il gas, e quindi non me la fatti nulla. Lo so, anche io ho fatto lo sbaglio quando stavo facendo la strada. Questa cosa qua non posso leggere i tubi per... E poi lo faccio dopo, lo faccio esternamente, lo faccio qua, lo faccio là, un cacchio ho fatto, capito? Quindi anche i termosifoni non mi sarebbero dispiaciuti, è una caldaia a gas e ciccia, l'avrei risolto ugualmente, però oramai non ne vale più la pena, capito? Ma stai scherzando, non ne ho soltanto uno, io ho dovuto rifare tutto l'intorno così, anzi ne ha gasino, lascia aperto. Io ce l'ho qua nella cameretta dove c'ho le radio, era, questa è una cameretta per gli ospiti, non è una sola radio come c'avevo prima, c'è anche il lettino, c'è l'armadio, c'è tutto, capito? Ho messo infatti la base piccola, non quella grande, ho messo le radio proprio indispensabili, non ho fatto una grande cosa, è tutto conservato, tutto gli armadi, tutte le radio che avevo, eccetera, già ne ho e qua, ce ne sono quattro, però già va bene. Però ho fatto gli spostamenti proprio in un termosifone, e i termosifoni sono grandi, sono tutti da 16, quello del salone ne ho uno da 18 e uno da 14, questo che c'è qua è 2, 4, 6, 8 da 10, 10 elementi, sono tutti nuovi, non sono quelli nuovi di ultima generazione, pianto è favoloso. La caldaia della Silver da sacchetti, la montata sacchetti, Carlo Sacchetti, quello di via Cattarocchino. Infatti domani mattina ci devo passare, perché mi ha detto avvisami quando devi accendere, perché ti mando a Gianmario il tecnico, praticamente tu non toccare niente, perché deve mettere anche il timer, deve ancora finirla, figurati tu, però freddo non ce n'è, c'ho anche due termoconvettori grandi, cioè quelli il coso, come si chiama, condizionato, quindi se c'è freddo accendo quello un'oretta e scalda tutto, non si può stare all'orgoglio più bello. Tutto qua, però lo dovrei fare prima, lo dovrei fare prima, perché farlo adesso per passare i tubi è un casino, mamma mia! No, ma non sto pensando di passare i tubi né niente, no, addirittura stavo pensando solo di fare i buchi dall'interno per... ma non mi interessa adesso, non faccio più niente, adesso metto una zuppa, così che stavo dicendo, e basta, però a consiglio di fuori l'avrei fatto internamente, tu mi capito, invece così non fa più, non voglio che casino nuovamente a casa a rifare tutti i lavori, no, polvere e quant'altro, voi la sapete. Collaboraccio, Dio, mi già c'era Roberto, già non siamo venuti, c'erano ancora i muratori, stavano finendo. Signor Gagino, dubbi contro dubbi, ma proprio l'ultima cosa che hanno fatto era l'impianto di riscaldamento. E ho visto, era un casino, perché tu devi aspettare che asciughi tutto, i musifoni, alla fine dovevi mettere tutti i battiscopa, ma un casino, ui, la sorella, no. Fategli tu non toccare niente, ma no, perché questo ci potrebbe, non tocca più nulla, c'è tanto tu vicino, non fa buchi e buchetti. E gli ho detto, basta, infatti ci manca ancora in questa cameretta un pezzettino battiscopa sotto, perché praticamente il termosifone l'hanno messo troppo basso e quindi il battiscopa non ci stava, capito? Quindi una gente di un casino che mi ha levato, lascia perdere, non voglio più morare dentro casa, ma che cosa devo fare? Finire di quella stanza grande che c'è fuori nel Calvario, perché continuano a mangiare i topolini, devono essere sotto le travi, sotto da qualche parte, hanno qualche ingresso, entrano la notte, mangiano e vanno via. Continuo a trovare le bustine tutte bucate, gliele cambio, gliele metto nuove, le ritrovo bucate, e loro non ne ho trovato mai uno dentro morto, cazzo a dire, ne ho trovato uno, mai uno. Vabbè, sai, in campagna ci sono, tu pensa, non lo sai, il decomposto è fuori, il come si chiama, dove butti la mondezza, l'umido? No. C'è un altro sistema, io ho fatto un'altra cosa, praticamente solo la plastica metto fuori e basta, solo la plastica, i due cosi piccolini ce li ho dentro, dove c'è il posto, sono dietro dove c'è la cucina, no, non le ho mandata fuori, e c'è la porta in questa stanza, capito? C'è la porta sempre chiusa, siamo sempre molto attenti, no? Io fuori da quando ci sono non ne ho mai visto uno, né di topo, niente, topolini, topo, nulla, animali insomma di campagna, manco uno. Cazzo, dentro questa stanza è una cosa, ma poi non li vedi, io ho provato a controllare, a fare, ci sono dei buchi sopra in alto del travetto, questi buchi dei cantoni, perché dentro non entra una cazza, non l'ho finita, e sicuramente entrano da lì, passano da lì, c'hanno i nidi lì dentro, che cazzo ne so. Poi proprio dentro una cazza, non lo sono più. No, vabbè, io ti dico così perché stavo utilizzando, secondo retire i secchi della Mondezza, no, dal comune, ti danno anche il come si chiama, cazzo, il decomposto, tu butti un coso grande, dove tu butti tutto l'umido, poi ci mettere un po' a terra, poi lo devi muovere, ballevare, poi alla fine diventa una sorta di concime, no? L'ho messo lontano verso più giù di metà campagna, dai, diciamo. A un certo punto una sera d'estate, mi stavo facendo una passeggiata, se non vedo una cosa nera, due galline, dai, vedo. Se mettevo roba a mangiare le galline, e la sera non le trovavo più, ma per tanti, ci credi che c'era una rosa di pupi mangiando il gran turco, e ah, così è zitta, ho comprato quattro bustoni di quelle buste grandi di vera per tupi, no, e le ho messo a quantità industriale, tempo zero che li ho sterminati. Anch'io, ma scusa, il problema come mi dice che dove io vado a comprare la medicina, no? Lì alla Grizzò. Ho detto, ma tu non ti preoccupare, se non li vedi, e quando l'importante è che tu sappi che loro stanno mangiando, e cazzo stanno mangiando, se trovo le bustine o vuote in terra o buttate, non c'è problema, loro mangiano e se ne escono fuori per andare a cercare a bere, e non entrano più quelli che hanno mangiato, cazzo, ma tanto che ne è, ogni dica i bustini sono buccati. Guarda qua, io non dovevo dire male, ma una ventina li ho visti a giro, sono una rosa, ripeto, uno accanto all'altro mangiando, un cerchio grande, poi non vi sa me, tu non sono tutti quanti, sono tutti fuggiti, cioè addirittura volevo tentare con fuggire, che a te ha sparato una fucilata. Ma grandi sono, no, perché questi sono piccolini, fanno dei buchettini piccolini, una bustina ho trovato un po' più col buco grande, ma sicuramente hanno mangiato più di uno, perché grandi non penso che ce ne siano. Se ci sono i piccoli ci sono i grandi, non riuscire, ammazza che mi devo l'aria, ma io devo chiudere allora lì, devo chiudere questi intercapiti che ci sono, questi spazi nel muro, perché solo da lì entrano, c'è il sottotetto, solo da lì entrano, capito? Possono entrare solo da lì, perché la porta è chiusa e da fuori non entrano, fuori io non ne ho mai visto uno, mai, mai. Poi se loro stanno dentro, trovi la cacca del topo, ok? Io cacca del topo non ne ho mai trovato, trovo solo le bustine bucate e qualche volta mi mancano anche le bustine perché le conto, e sicuramente se le portano via. Da può essere, perché anche a me mi sono scolette le bustine. Io avevo una sorta di un vecchio bagnetto che avevamo fatto circa 20-30 anni fa, e lì ci ho messo, ormai è in disuso, quindi ci ho messo tutta l'attrezzatura del lavoro mia, sai, molto figo, questa roba qua, palette, anche lì stiamo girando. Allora ho messo qualche bustina, di male vado a guardare e ci mancano le bustine, ho detto vuol dire che sono presa, sono tirata per mangiarsela con calma, adesso. Sì, ma quello del consorzio mi ha detto che se mangiano non tornano, e ma cazzo, Dugnadi venne, ci sono le bustine vuote, adesso due, stamattina sono entrato, due le avevo messe davanti, lei non c'era, detto, no, cazzo, non è possibile, e invece no, dietro un mobile che c'è, vuote, completamente vuote, cazzo, gli dico, ma tanto mangiano chi c'è, ma non è che sono ingrassando invece di ammazzarli. Allora, un mio consiglio, poi fai come voi, cercate di cambiarle il mangime, perché è capitato che si sono abituati anche alle solite bustine, e dopodiché non le faceva niente, quindi ogni tanto cambia le ovviamente mischiate. E infatti io ne ho preso due pacchette, due dello stesso colore, però adesso chiamo un mio collega, capito? E mi faccio buttare le bustine, quelle che usavo io al lavoro, e con chi si non perdona, capito? Non perdona. Ma è il riso, quel riso non si può mettere quello lì? Sì, perché no, lo si può mettere, ma io mi ricordo il nonno mai mi metteva il riso arancio, quello rosso, in un cassetto vecchio che aveva in un cortile, una volta ho aperto il cassetto, c'era il riso con la paglia qui a fianco, quindi siamo abituati a mangiarlo. Mazza, allora devo cambiare colore, devo cambiare colore, allora devo cambiare colore, vabbè, domani è perché ho un mal di schiena in questi giorni, non ci lascio, domani faccio un po' di impatto, me ne trovo dentro, accendo il faretto e mi tappo tutti quei buchi, e poi le metto il poliuretano espanso sotto le travi dove ci sono gli spazi. Ma mi hanno detto che lo mangia quello, vero? Sì, quello non glielo mettere, perché lì gli saranno maniera tale di farsi la tana, quella è una cosa che per loro fa caldo, lo bucano e si fanno la tana, ma glielo mette di coro perché semplicemente basta, oppure ancora meglio, se riesce a fare all'antica come facevano una volta, il cemento fatto con il vetro, e loro non si tagliano, non ci vanno più, però è una cosa brutta, lo so, però molta gente faceva anche così, non mettere proiettano perché non risulti con quello. E poi un'altra cosa, ci sono quelle pastiglie blu che sono cilindriche, quelle un pochino più spesse, si mettono le trappole, quelle nere che vendono, non so se ce le presenti, quelle sono molto buone come pastiglia. Ma quelle a quadratini, anziché mettere la bustina a comprare quelli a quadratini duri? Sono dure, però sono cilindriche con un foro centrale, si mettono proprio a posta nella mangiatoia, le chiamiamo così noi, quelle nere. Come si chiama? Quella entra al tocco, mangia e poi se ne va. Ho capito, devo consultare che accesso i gaggi, uno di quelli che... Se no guarda, ci butto dentro due gatti, cazzo, fate di strage. Fino a vedere, se il topo è grande, il topo non può attaccare. Non lo so, perché non li vedo io? Per vederli devo fare un sistema di telecamera a raggi infrarossi, cosa vuoi ti dica? Vedere da dove escono, perché ti ripeto, io la mattina entro tutte le mattine, tutte le sante mattine, capito? Perché se devo fare roba mi cambio lì, capito? C'ho la roba, le scarpe antifortunistiche, le scarpe sono gli stivali, non toccano niente, non stanno toccando niente perché non c'è niente. Inizialmente quando sono arrivato mi hanno disintegrato perché ho messo tutte le cassette di cartone lì, perché per prendermi tempo per sistemare la roba, eccetera. Cazzo, non sai quanto ne ho trovato buttate? Un bel. Ci credo. Tu pensa che quando avevo il container, aspetta un attimo, almeno blocca questo, quando avevo il container che lo stavo allestendo per appendere quella roba là, c'era un buchetto che non avevo visto che cavolo era, beh, allora sai che trovavo la cacchetta e non sapevo dove, allora giubilato, ne ho smontato tutto. L'ho trovato, ho preso la polivacca, ho igienizzato tutto quanto, ho detto mamma mia, ma allora che l'ho trovato prima che facevo tutta la roba. Ma io lì, guarda, c'è un fresco, l'estate è una cosa allucinante, c'è un fresco, un bel fresco, a volte c'è un tavolo lì di plastica con le sedie, me ne entravo lì una bella berretta con, anche con il mio vicino, ma adesso non mi piace più perché cazzo, so che ci sono i topolini, possono salire sopra il tavolo, no? Non mi va, una cosa mi sta prendendo un bel male, cazzo, devo trovare la soluzione per chiudere tutti questi buchi. Una volta che ho chiuso tutti questi buchi, anche se non faccio l'intonaco vero e proprio, però se non ci sono buchi non entrano più loro, assolutamente. Perché c'è la traversazione dove c'è uno spazio almeno di 5-6 cm, tutto in giro, capito? Dovevo ha detto il proprio Gamura, ha detto lui, non so cosa il gatto dove va, non ha mai fatto, quindi sicuramente sono lì dentro loro, lì in quegli spazi lì, negli spazi dall'intercapede, è un casino. Buonasera a tutti, Diaboli, sono per i saluti. Sì, Giovi, ogni tanto esce da nuovo, buonasera. Ciao, buonasera. Sto usando, non c'ho l'antenna qua, 27, sto usando la direttiva. Pensavo non dire non arrivare neanche. 9.30 qua. 9.10 qua in campagna. Ciao Walter, buonasera. Ciao, è arrivate anche voi, 9, tu Claudio, 9.20, 9.15, Tino, l'altro chi era? No, ce ne sono, solo io e Tino siamo. No, c'era un altro. Sì. Ci ha parlato, non lo so chi era. Ascolta, non hai impegnato, sì. Walter, domani impegnato, sì. Domani sono a Cagliari di sera. Ah, ho capito. C'è una riunione col personale. Vabbè, rimandiamo. Guardate, non è che c'è qualche MC 60 che non usiamo? No, ne ho uno solo, abbinato a un 430. Io ne avevo 4 cattragli tutti verdi. Non se ne trovano più di questi microfoni per mettere sull'altro 430. Io c'ho sempre il 430, l'ho preso da te, però ne ho un altro e lo devo mettere. Però mi ha messo al 4.30 o al 4.40, comunque uno ne ho. Che mai me ne mazzo, mi faccio voce latino. Io dirò a te per segnarvi qualcuno in più. Io ce li avevo, li ho tutti venduti. Vabbè, hai fatto bene, si è fatto i soldi da parte, mi hai visto le nazioni. Venduti, regalati, li ho venduti. Va bene, dai, io vi saluto e qua c'è gente, ci sentiamo, ciao Tino, un abbraccio, ciao anche a Walter, ben ascoltato, ci sentiamo nel prossimo, ciao ciao. Sì, ma boh, dai, ciao, ci sentiamo, ma anche io tanto, andrò a trovare Gabriele adesso che ci è uscito, non ne voglio più, devo andare anche io per uscire da qua, da questo buco. Ciao Flavio, ci sentiamo. Come che segnale ti arrivo qui? Quanto segnale? Quanto è il segnale? 9.30, però è molto rumore sottofondo, è casalingo, quindi per radio è un po' la tua modulazione, però è confuso. Così com'è la modulazione, il segnale? Così è buona. Quanto è il segnale? Il segnale è un pochino più basso, sei quasi 9.20. È buona. Sì. Sto usando il 7.007. C'è casino, qua non sta zitto nessuno, lo sai com'è? Così ho aumentato un po', vero? No, vabbè, sempre più la televisione. Cosa devo dire? Poi c'è la partita fra poco, devo guardare il Cagliari. Ha aumentato qualcosa? Sì, quasi 9.35. Vabbè, dai. Dai, saluto a tutti. Ciao, ciao Pino, Claudio e gli ascoltatori. Oh, Walter, ma l'R0 di nuovo spento? No, è sordo come la palla. Lo sordo, arriva 9 qua, ma no, oggi no, no, non lo incito per niente. Manco io e mi arriva a 5. Che strano, che buon picchio. Vabbè, ti chiudo e non fa, non fa. Purtroppo Samuel le dà a imbavagliare. Beh, ti diamo già l'ora, ciao. Ci sentiamo, sì, poi vediamo un po' qualche cosa, boh, non so, quindi poliuretano non gliene metto, solo intonaco e boh, ma se le metto il vetro in mezzo, in quello spessore, poi le metto l'intonaco. Così mi hanno detto di fare alcuni. Ciao Walter, ciao, ci sentiamo, dai, quando rientri già ti chiamo. E niente, mi ha detto che lui entra e si fa male, non si fa più. Io lo faccio così, quelle fessure che ci sono, mi metto un po' di vetro e poi le butto dentro l'intonaco, lo manco ribassiamo macchini, perché sicuramente scendono da lì, ma c'è poco spazio, quindi grande non può essere, sono piccolini, però come dici tu giustamente, se ci sono i piccolini ci sono anche i grandi. E allora, andare, boh, fai così, perché vedete, mia collega al lavoro, stavo parlando di questa cosa qua, c'aveva un buffetto piccolino e passava sotto il troppo, ma alla fine ha fatto questo lavoro qua, sto facendo io, due pezzi di vetro, c'è un po' di cemento, era risolto. Ok. Adesso facciamo così, allora avanti break. Buonasera, salutone, ci vediamo a tutti, ciao Claudetta, ho fatto ascoltare la tua pezzissima. Ciao Daniele, buonasera, ben ascoltato, siamo io e Tino, ma io sono in chiusura perché c'ho gente ed è pronta già la cena. Ok, ti abbraccio fortemente e ti lascio con Tino, vai. Ciao Fai di Roma, vai, contraccambio tutto al centro, la carica è per tutto, mi prendi sì con la buonasera. Ciao Daniele, ciao. Perché sei un lampo? Ormai ha preso le tappe, che non sta tornando. Anche voi, io vabbè, sono in un angolino di casa dove ho spento il televisore e quant'altro, ma si ascolta anche il tuo televisore. No, che c'è, casino qua, c'è Vittorio e sta giocando per fare, e quindi sta parlando anche lui, non so se l'avete sentito, e quindi si è spontaneo a fare il più alto. Una chiacchierata così con gli amici, adesso stavo chiudendo anche io, ma ho visto che c'è entrato tutto, mi sono tenuto altri 5 minuti e poi vado a prendere a capire che è uscito. Brava, brava, riprendi in classe di Sanpera. No, il caso ha chiuso. Ah, va bene, allora. Ok, poi ho acceso tutto per programmare, visto che era per il tempo assente, tra impegni. Troppo rumore casalingo, quindi soglio un pochino la timbrica della bicetta. Non è che troppo alto il piccolo passo, no? No, vabbè, troppo alto, la radio fa bene, è che raccoglie molta superficie. Me lo cucino. No, sta per il drone è acceso pure. Per farlo. Che tutto? Per farlo scaldare. Ciao Massimiliano. E qui senti di ronchiare il freddo, sicuramente. Sono attaccato al microfono. Non è per quello, allora. Ma questo è quello che abbiamo regolato, che abbiamo tirato il bicchierino. E sono troppo in fondo. Venga, è bella modulazione, hai visto? Tu sei disipirato, grazie per il fuoco, tu sei arrato, vero? Va bene, va bene. Io sto usando il gemello mio. Di Russo, no, la modulazione è inconfondibile. Per la torpeta, per la... insomma, niente da dire. Però dove... credo che abbia una stanza ampia, perché fa un po' di rumore di aperto, diciamo, no? Sì, sicuramente è più vuota della mia. Sì, anzi, sempre dentro un luculo io, non è proprio venuto perché c'è sopra un soppalco, che dovrei fare seduto, perché se no tu anche ci sto. Ma ti ho visto in Piazza d'Italia l'altra volta, vicino al bar di Laria ieri. Non lo so dove è, ma con un'altra divisa però, grandina. Eia. Si conferma, non sono io, state lì parlando, sono sempre stesso. Asciuga, sono io, dice il Venni. Insomma l'ha detto Laria, l'altro papà c'è la maniera. Quale stavano facendo lavori, ha detto ma... Io sono io. Ma dove stavo parlando? Dove ho fatto il canto lì? Ehi, ieri. Che figura che ho fatto? Ma ero pure in vita, non so chi è, cioè non la ricordo più magari. Sì, ma lei già ti ha visto però. E lì è, Piazza d'Italia, all'angolo, lo vedi tu. Stavate facendo quel lavoro ciottolato, il giornalista qui. Io ci transcende in mezzo alle balle, che tu ma c'è finito, che non ne devo che transcende. Ma cosa ci hanno finito qua? Non abbiamo ancora finito. Che mi ci va a fare ancora noi dell'architetto? L'architetta. Ma non guarda in aria. Lì dopo attacco le transcende, cioè di fronte alle transcende, verso il cantiere. No, capito. Io gli ho visto le transenne, ma gli ho detto poi l'Italia mi ha detto che ci ritulli, già lo sapevo, non l'avevi già detto, però non facciamo che lì in quel cantiere lì. Va bene, dai, sì, io sono rientrato perché ho visto che sono usciti un attimo loro, ma iniziamo a preparare qualcosa per la cena, vai, se no devo scaldare roba, devo preparare e fare. Tanto che è un freddo vuole, ti fatti i cirugani, ciucciù. E invece sono qua a dirvi che sono per uscita, che mi ha chiamato 2 secondi fa il cane. Guarda, oggi ha portato il cane mia sorella qua in campagna, sai che ha piovuto, no? Sono messo a giocare nella terra, nell'orosso, per carità, sia il mio che il suo erano irriconoscibili. Il pazzatesco sembrava un cairuppo di quelli proprio randaggi, di quelli visionari. Il mio non era passato marrone, per carità, domani mi sa che gli faccio un lavaggio completo. No, Filippo ha aperto la porta, provo a uscire fuori a fare la pipì. sembrava volesse uscire, cazzo bucato, lo capo fuori, fium, e andate c'è con il cazzo di nuovo. Sai che io mi ha preso il rotolario, no? Sì, sì, sì, me l'avevi detto, me l'avevi detto. Sì, ma anche quello è un osso. Se sta dentro, guarda, non ti trovo più. Allora, io mi stavo recando il vetro della porta, avevo la faccia schiacciata, recando la cassa, che ha iniziato a musicare il vetro, e poi scavare la porta. Casino, se non mi ti entra appena appena non sarà voluto uscire, no, ma infatti sto dormendo fuori, non è che in casa mi piacerebbe tenerlo, ma non va bene. Io da piccolino l'ho abituato e già sta molto fuori qua, prima in condominio no, stava molto nel poggiolo al sole, qua già sta se c'è sole, ma si fa freddo, domani invece sta sempre coricato dentro al caldo, possibilmente a fianco al termosifone. Va bene, ti saluto allora, grazie delle due chiacchiere, saluti a casa, ciao Daniele, saluta anche tu a tutti e ci sentiamo, volevo andare a cenare, ciao. Riprendo che sto uscendo, dai, ciao Claudio, ciao Daniele, ci sentiamo, dai, alla prossima se coincide, ciao, buonanotte a tutti. Ciao, dai, se possiamo avere il prossimo, se coincide, se non coincide, però in casa, sono qui, anche noi ci sentiamo le prossime appena coincide, dai. Sì, ciao, ciao, anche gli eventuali ascoltoni, ciao a tutti. Occhio, cagamella! Mia, vabbè, cimbirella. Ciao, Lugarie. Daniele, cazzo 9 più 20 ti arrivando qua, Io sono fuori Sassari. Che il mio è un po' di più, 20, 30, quasi 40 modulati. Com'è il mio segnale lì da te? 9,15 sei modulati. Va bene, non lo vedo Sassari, quindi va benissimo, che sia un pochino più alto. Ciao Lugarie, mi ti lascio con Daniele, dai che vado a cenare, ciao! Sì, ciao Daniele, ciao Cla, a plus, ma io già mi lascio con Daniele, devo fare quel computer, adesso l'inizio, dai, così domani se ce la faccio, no, domani no, dopo domani io lo do. Via, va bene, sei un po' tu, dai, lascio che fretta non ne abbia, comunque se devi farglielo, farglielo così, se non vuoi che la vedi dai bene. Ciao! Ciao, ciao, vabbè Daniele. Tanto, è iniziato al comune, sì. Quella vittoria sono finita, cosa? Che parità? Non ho capito, no? Dove è il manicomio? Una vittoria non è un cantiere, quello. Ma è sempre dentro il cimitero il coso, là, il furgone. Sì, sì, tanto non è cambiato nulla. Ma qui è una zona tra... Cioè, qui è una zona tra quello che era detto per te. Non ho capito niente, ti porti tutto il QRA dietro. Ho detto, e quella è la zona tra figlio e con gli operai e con il programma. Siamo tra di quelli con più palle? No, il sistema è sempre lo stesso, ti danno le cose, attrezzi, corretti, sempre contatti. Quindi lì è sempre la stessa cosa, la campagna per far parte. Poi, le cose che ci sono una zona. Ma chi c'è pure, aspetta, cazzo si chiama, Andrea si chiama lui, ci guarda, stava lavorando con te, Andrea, non mi ricordo il cognome. No, con me non c'è nessun Andrea, mi sa. Sono nell'altro cantiere. Bibu, non lo so. Andrea. E comunque anche lui è entrato lì nel... insomma, nell'edilizia là. Ma non è che sono dei sentieri per caso? Ma è quello? Non è che per caso nei sentieri? Non ho capito, nelle? Nei sentieri? Ah, boh, non lo so, qui l'ho visto dentro il cimitero. Nella parte di Diale, della strada di Alghero, dentro stiamo facendo... ma mi sa che è diverso, là. Lui è nella segnaletica, mi sa. Stiamo tracciando i parcheggi in terra. Perché adesso, no, vabbè, aspetta, l'annuncio. La segnaletica è sempre stato felice. Cos'è che sono? Tutti dei sentieri, oppure noi, della manutenzione. L'asfalto lui è la segnaletica stradale, dai. quella di via Carlo Felice, e poi li hanno messi lì al cimitero. Ho capito, ma domani lavorate, sì. No, domani non lavoriamo, libero. E perché questa... perché? Perché ci sono persone che devono recuperare le ore delle giornate del corso. E poi non te le pagano, ma te la hanno la di recupero. Più c'è gente che ha fatto... a lavorare poi. Potrebbe lavorare, però per me non c'è un ritratto pazzesco, perché 4 ore sono 11 euro, mi sembra 12 il muratore, ma così a fine mese prende la misura. Ah, chi muratore? Allora, se il muratore non lo fare, non avete perché poca differenza. Tu pensa che il muratore ha anche la responsabilità di quello che fa, e invece il manovale che responsabilità? Niente, però c'è più per il muratore, e però per fare il fattore, non posso più iniziare, come fanno? Non c'è 50, ma non è un'inferenza, non è mai stato. Ma carista, non se ne capisce più niente. Guarda, 8 anni fa stavo bene, a quel punto, l'avevo impazzito, se non messo la firma, avevo fatto 14. Thank you. tirando 800 euro, magari, insomma, una cosa, vabbè, un aiuto, però attenzione, perché chi rifiuta è morto, è morto, e fanno bene, e fanno bene, fanno bene, perché io non è che sono contrario, per carità, però se ti chiamano a lavorare devi andare, perché tu sei in attesa di lavoro e ti stanno dando sussidio per poter campare, quindi se c'è lavoro tu vai a lavorare, invece che grattarti di coglione a mangiare la gira. E anche io sono d'accordo, io a me non mi so la sorgente, Daniele, fatta doccia. Fino a oggi? Io non lo so, però ho fatto tantissimo, perché sono stato adesso tramite Lorenzo, perché io sono al comune e un conto, e questo è un settore, non so, io ti ho passato da Lorenzo, io ho fatto il progetto, ci sono delle cose che ho fatto per attivo, di pagare affitto come ti va a pagarci dopo 2 ore al giorno? No, perché no, sono una domanda al mese, capito? Tu devi stare 4 ore, tu devi stare più su, 8 ore a settimana che devi stare, caro. Sono dalle 8 alle 16 ore settimanali. Dalle 8 alle 16 ore. Rientrato. Ah, lui, tu sei rientrato al lavoro. Io devo entrare dopo, devo iniziare a novembre, i primi. Penso la prossima settimana, La prossima settimana. E quindi ti danno praticamente quello che lavori, Per forza. Non so se ci sia una differenza, ma penso di sì. Però io, vabbè, siccome gli ho detto che sto facendo delle cure dal dentista, adesso vogliono un foglio anche, capito? Per vedere se è vero che io sto andando. Vabbè, comunque si vedrà, perché questa storia cioè deve finire, è un casino, capisci? C'è un bel di gente che stiamo che anche dell'aria, non trovano extra, non trovano personale per coprire la tornazione di ferie, non trovano personale per la malattia, non trovano personale, soprattutto per gli extra, capito? Per far riposare il personale. Non agattani, non vi vuole andare nessuno, a chi vanno tutti, chi sussiduo. Deve finire questa storia. Se ti chiamano a lavorare, devi andare a lavorare e basta, punto. Ma io sono d'accordo con te. Comunque a me hanno messo a scegliere se volevo andare in ambulanza oppure, bugia, gli ho detto, se c'era il verde, siccome ce n'era roba da pulire, no, ce n'erano solo cose da fare, tipo se tu vai, anche vicino a casa mia, e molte volte lo spazio non passa, bottiglie da raccogliere, qualche ciuffo d'erba da tagliare, cose così, invece di quello lì non c'è niente, è solo assistenza, là, diciamo. Quindi verde urbano non c'è più niente, c'è assistenza, cosa, gli anziani? L'ambulanza è tutto in città. L'ambulanza è tutto in città, ci vuole a me andare a fare uscire. Ah, cazzo voce. Devo fare, andare a citare un cieco. Ma ci vuole gente preparata, gente competente, gente che l'ha già fatto. E cazzo mandi a uno qui all'Istituto dei Ciechi a Fagoglia, c'è Maro Manolino. Uscire qui, dai, così a fare commissione, quello lo posso fare anche io, ma c'è uno come me che ha lavorato, cazzo, 35 anni in mezzo alla merda, le depurature cosa va a fare? Dico no, uno che c'ha una cosa del genere, uno che c'ha una specifica, proprio un lavoro specifico, cosa lo metti a fare? Alle 16 ore, poi non lo so, non saprei.